noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E senza dubbio quella di domani è una partita che, se dovesse andar bene, mi darà una grande gioia, e nell'altro caso, insomma, non ne voglio parlare e non ci penso, ecco. Andate, vincete. No, è una partita talmente importante che non ci sono bisogno di parole, credo. C'è bisogno di serenità, consapevolezza e convinzione. Questi sono, e credo che sono tre componenti che facciano già parte del bagaglio dei giocatori. Qualsiasi parola credo sia assolutamente inutile. Conta l'approccio alla partita, conta la determinazione con cui fai la partita, la rabbia con cui ti fai la partita, con la voglia di risultato che tu vai in campo. Tutto il resto, le parole non fanno risultato. Beh, non è la Stars and Stripes meravigliosamente suonata da Jimi Hendrix con la ben nota chitarra, però anche questa base ha il suo perché in questo venerdì che ci porta a una delle partite più importanti degli ultimi anni. Playoff contro la Svezia, si gioca a Solna. Tutti i senatori in campo, un'età media, stamattina guardavo i primi sette della formazione: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Candreva, Parolo. De Rossi, il più giovane, è Bonucci, che di anni ne ha 30. Però l'unica cosa che conta è il risultato, l'unica cosa che conta, doppio confronto, si gioca anche lunedì sera a Milano, è andare ai mondiali, null'altro. Buongiorno Pardo. Come va? Benissimo. Come va? Anche perché c'è il mille volte citato nostro amico Marco Nosotti, sai? Dalla Svezia. Noso, vecchio, dove sei? Amici, alla Friends Arena. Buongiorno a voi. Tra l'altro il noso alla Friends Arena è proprio, si sta come il cacio sui maccheroni, e lui dice sempre: amici, eccoci qui, quindi Friends. Come andiamo? Come stai, noso? No, guarda, allora, Friends Arena abbiamo al chat, io sono arrivato a Coverciano, sarò negli studi, perché poi seguirò gli studi. Oggi è Sky. Ci sarà nel pre, nel post, in tutte le salse il maestro Pirlo, che ci accompagnerà in questo da New York, e quindi siamo qui a seguire, perché ci dividiamo i compiti, anche il lavoro di cucina, che tu ben sai è molto importante in queste cose, e siamo tutti per gli azzurri, abbiamo tutti voglia di far fuori una Svezia, ecco. Noi abbiamo il mito delle svedesi di Rimini, è vero, però in questo caso siamo tutti a uno in questo obiettivo, bello, dite bene, il fine giustifica i mezzi, anche sì. Provare la grande rivoluzione, il cambio generazionale del post era Conte, e poi approdare tra 3-5-2 4-2-4 questo gruppo che va sulla tradizione. Avete sentito l'altro giorno Chiellini? Sì. Pace. La nostra tradizione è quella di difensori, di fase difensiva, di attenzione e di ripartenza, se vogliamo. Sì. E in questo momento quelle sono le loro certezze, gliele diamo, e poi se andiamo al mondiale abbiamo tempo per impostare. Se andiamo al mondiale non sono ammessi se, non sono ammessi i ma. Ci piace pensarla soltanto in questo modo. Tra l'altro, il professor Capuano, che prima era qua presente, mi ha dato un paio di numeri. Beh, sui 7 over 30 su 11, ve l'ho già detto, ci sono anche 7 giocatori, sono gli stessi peraltro, che hanno battuto la Svezia 1-0 agli europei nell'era Conte. Quindi non è cambiato poi tantissimo, Pierre. No, ma non è cambiato tantissimo, e anch'io mi unisco all'ottimismo della volontà, al non voler neanche pensare a quell'altra ipotesi. Credo che siano due partite che ovviamente sono appunto due finali, sono due partite che fanno a parte da tutto il resto, sono due partite che in qualche modo dobbiamo riuscire a superare. Poi secondo me, se le cose vanno come devono andare, bisognerà mettere un bel punto, lavorare su tante soluzioni che ci sono per valorizzare il talento che abbiamo. Queste sono due partite in cui, quando tu hai fatto quella lista giusta di nomi, di giocatori esperti, in realtà il mio pensiero è stato positivo, nel senso che se ci sono delle partite dove serve l'esperienza, sono proprio queste. Poi è ovvio che questa nazionale, per quella che secondo me è la crescita del calcio italiano negli ultimi anni, perché qualche segnale secondo me di ripartenza c'è, insomma, poi se le cose vanno come devono andare, secondo me bisognerà lavorare per costruire una nazionale ancora migliore, per valorizzare il talento che abbiamo. Penso Insigne come primo nome, ma penso anche a altri giocatori che possano dare un contributo. Però questa sera e lunedì conta soprattutto l'attenzione, la concentrazione, la solidità, e poi io credo che abbiamo qualcosa in più. Quindi dobbiamo far valere questo qualcosa in più che abbiamo. Poi parliamo anche della Svezia. Io di giocatori irresistibili in questa nazionale svedese non ne vedo, e poi proviamo a capire da dove possono arrivare i rischi e i pericoli. Marco, non so, ti ci provi almeno tu a spiegarmi perché giochiamo con due prime punte e io sono due giorni che divento matto, cioè, relativamente, si è fatto male Zaza, va bene. Questa sera giocheranno Belotti, che rientra dall'infortunio, come sappiamo non è in brillantissime condizioni, e giocherà con Immobile. Perché non Lorenzo Insigne? Spiegatemi, provaci tu. Io ci provo nel senso, diverse situazioni. Uno è il sistema di gioco, uno è la tradizione delle ultime 16-17 mesi. Ha lavorato con questi sistemi, col 3-5-2, 4-4-2, 4-2 che altro chiamiamo come vogliamo. E in questo caso ti dico subito che anche a me piace molto Insigne, però ha una ragion d'essere in un tridente particolare, in un 4-3-3 collaudato con automatismi oliati, come quello di Sarri, con una difesa di un certo tipo, con i terzini che vengono, con quel Gulame Amsic che gli permette di lavorare in quelle mattonelle intorno ai 25-30 metri sulla sinistra, viene dentro sul destro, con cui può fare qualsiasi cosa saltando l'uomo e senza avendo compiti difensivi, che invece aveva nel 4-2-4, ha giocato 7 volte titolare nelle ultime partite Insigne. E situazioni diverse, giocatori diversi che hanno anche caratteristiche diverse. Io penso per questo il 3-5-2, che mi sembra, più che mettersi a specchio contro la Svezia, è il più adatto in questo momento, anche perché lo vogliono i giocatori, certo, per distanze. Conoscenze, per condivisione anche di prospettive. Ti dirò, il discorso delle due punte è che sono due punte che possono essere simili, pestarsi i piedi molto meglio in area Belotti, sono forti, qui c'è anche il discorso del contrasto fisico con i giganti. Poi c'è una cosa: abnegazione, disponibilità al sacrificio di Belotti ed Immobile. Attaccano a profondità, ti aprono gli spazi, lo fanno dal primo all'ultimo minuto. Belotti ti sente e ti sfila via. Immobile ti salta, la sua corsa in profondità, destra e sinistra, ma poi converge verso la porta. 19 gol stagionali. È in un momento, insomma, alla Paolo Rossi mondiali, adesso non voglio enfatizzare, però di schillaci mondiali, insomma, classico momento per un attaccante in cui tocchi un pallone qualunque, lo strusce, quello va dentro. Speriamo che prosegua in questa direzione. E credo che Insigne sia una soluzione in corso d'opera. Ti ricordo, Insigne è stato utilizzato a Udine contro la Spagna in amichevole con noi, in corso d'opera da Conte, ricordo, a marzo del 2016, fece un gol bellissimo, proprio alla Giovinco, in mezzo alle linee, vado a sparigliare le carte e do quell'imprevedibilità. Però adesso, come avete detto giustamente voi, bisogna andare su quello. Poi attenzione agli inserimenti, da una parte di Parola, una parte di Verratti, hanno provato queste situazioni, gestione palla veloce, trovata l'imbucata, e nelle linee Verratti potrebbe alzarsi per dare la verticalizzazione. Vediamo così. Poi ne discuteremo. Sai, se fa un bel 4-3 con Insigne, vediamo come va stasera. Poi magari si fa in tempo a cambiare per Milano. Ci auguriamo che stasera. Ma poi c'è anche l'aspetto fisico, cioè c'è anche il fatto che giochiamo in 72 ore. L'altro giorno un ascoltatore ci ha chiamato dicendo che ma perché? Ma non è che dopo 72 ore sono stanchi, non è che sono stanchi come se fossero dei normali impiegati, cioè non è che portano il certificato medico. Però è ovvio che in due partite così importanti è decisivo che ci sia il massimo livello della condizione fisica. Quindi in 72 ore forse la scelta da fare è quella di un minimo di turnover, di farlo quantomeno in corso d'opera. Quindi è chiaro che Belotti Immobile è una scelta abbastanza estrema, nel senso che sono due giocatori, siamo al limite della possibilità di giocare insieme. Però Belotti è un attaccante che partecipa molto, che si sacrifica. Immobile in questo momento ha una brillantezza, una capacità di saltare e di dare profondità enorme, quindi secondo me non è una scelta così strana. E poi c'è Eder. E poi però ripeto, dopo, se tutto andrà bene come ci auguriamo, va bene, poi si comincia a lavorare su un altro progetto, su un altro discorso, magari anche quello che Ventura aveva abbozzato a suo tempo che per queste due partite viene abbandonato. Io volevo salutare Marco Nenosotti, che lo lasciamo andare alla cucina, che è gergo giornalistico. Ciao Marco, grazie. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, forza Giuri. Ciao. Allora, tanto sai che adesso è il momento del pronosticone, no? Si sta avvicinando, Pardo, e quindi convoco gli ascoltatori. La prendiamo larga, vi piace questa nazionale, quella giusta. Io 800240024 naturalmente, numero verde. Poi io vedo anche vari WhatsApp di segno ovviamente contrastante, tipo Bernardeschi Insigne Immobile, il calcio è una cosa semplice, scrive Piero, oppure questo Insigne ma è un calciatore, per favore siate seri, basta andare contro Ventura, vanno bene tutti. Vabbè, qui mi arrendo, alzo le mani in segno di resa. Ci fermiamo per il traffico, torniamo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Beh dai Pierluigi, non c'è la schedina oggi, non c'è il faccia a faccia con Capuano, ovviamente buttiamola un pronosticone, dai, così invitiamo anche gli ascoltatori. 2-1 per noi, voglio essere proprio ottimista, sì. Ci vuoi scrivere ottimista. 1-1 gol di De Rossi, 1-2 per noi come Pierluigi Pardo, insomma ne ho diversi di pronostici iscritti, vorrei sentire anche la vostra voce, ripeto 800240024, facciamo salto in Svezia? Certo, Tancredi Palmeri, buongiorno. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Vorrei condividere il vostro ottimismo, ma purtroppo fallo. Non ci riesco. No. Purtroppo sei, vi pessimista. Dico subito il pronostico per quello che vale. Oscillo tra lo 0-0 e 1-0 per la Svezia. Addirittura. Sì, devo dirvi una cosa. Qua c'è quel respiro che si sente quando una nazione è pronta al grande momento. C'è una grandissima fiducia, ma sana fiducia, quindi non quella roba per dire sì tanto la battiamo l'Italia, sono vecchi, no, quel vento di giovinezza che dice sì è il nostro momento, andiamocela a prendere con entusiasmo. E questo entusiasmo fa paura. A me la Svezia non riesce a far paura, in tutta onestà. Da dove arrivano i pericoli? Fatto un buon girone, sì. Ha fatto un girone con Fracciarà, insomma non è però prego Tancredi, vai tu poi vado io. No, dico, se guardiamo anche alla storia recente, sono stati anche molto sfortunati, perché loro è vero che rischiano di perdere per la terza volta consecutiva la Coppa del Mondo, però se arrivarono ai play-off alla Coppa precedente, chi incontrava nei play-off è il Portogallo, che figa. Girone questa volta, chi incontrano il girone, Francia e Olanda. Riescono a eliminare l'Olanda e mettono paura alla Francia fino all'ultima partita, perché li battono poi in casa. Che figa. Sorteggia i playoff, beccano l'Italia, che sfiga. Ci sono tanti segnali che dico porca miseria, sembra veramente che possa venire il loro momento. Dicevi Pierluigi, ha fatto un buon girone, certamente, da dove possono arrivare i rischi e i pericoli per l'Italia questa sera? Ha fatto un buon girone, una buona squadra, una squadra con giocatori di secondo me è interessante quello che dice Ibra, è una squadra adesso un po' più deresponsabilizzata, perché non c'è più un totem in questo momento come Ibrahimovic che si prende onori e oneri e soprattutto le responsabilità. È una squadra di buon livello, insomma, però non, io penso che dipenda da noi. Penso che dipenda da noi, cioè io penso che al di là degli aspetti interessanti che ci dice Tancredi e del fatto che appunto il girone è stato buono e che ci sia fiducia e che non vada sottovalutata, però insomma noi abbiamo più qualità, abbiamo più talento e quindi dobbiamo, e anche, abbiamo anche più esperienza. Bravo, esatto, lì volevo arrivare. Esperienza, perché sai, però, insomma, abbiamo giocatori, Pier, che di queste partite, se vuoi ti rifaccio l'elenco da Buffon in giù, di queste partite ne hanno giocate tante, di esperienza ne hanno tante, abbiamo gente che ha vinto, ci resta gente che ha vinto il mondiale, Buffon, Barzagli tanto per cominciare, ci resta gente che ha fatto l'europeo, l'ultimo con Conte, che aveva entusiasmato tutti, insomma abbiamo giocatori che magari paghiamo in termini di età, perché l'età media è altissima, però abbiamo giocatori di grande esperienza. Però tecnicamente noi siamo due volte meglio di loro, almeno. Il problema però è che loro hanno questo entusiasmo che moltiplica le forze e noi oggettivamente abbiamo questa paura che le dimezza. qui è questa cosa che tecnicamente devo dirti, è vero che loro sono un 4-4-2 basico, è vero che non ci sono particolari singoli nella squadra, tranne uno che è Emil Forsberg, che è una delle migliori ali d'Europa, uno dei giocatori sensazione dell'Izia, sensazione in Germania. E la cosa che mi preoccupa è che è vero che siamo 60 milioni di CT, ognuno ha la propria idea, lasciamo da parte il fatto che anche io condivido il fatto che si dovrebbe giocare 4-3, ma andiamo a giocare con un 3-5-2 che lascia lo spazio maggiore esattamente dove giocherà Forsberg, perché Barzagli oggettivamente dei tre centrali è quello con minor passo, con minor ritmo. Forsberg agirà esattamente là, e chi è su quella stessa fascia? Candreva, che è un esterno che non è un esterno che copre tutta la fascia ed è abituato a farlo con un terzino dietro, e Forsberg avrà esattamente spazio in quell'area. E a me preoccupa questa cosa, una Svezia che se ne sta tranquilla, che è compatta, che non concede e riesce a trovare lo spazio esattamente in quell'area. Hai capito questa analisi? Molto lucida. Forsberg, sono d'accordo sul fatto che Forsberg sia un buon giocatore, è probabilmente quello che ha più talento, ha più possibilità di sparigliare. La coppia davanti è una coppia normale, di livello medio. Toivonen Berg è una coppia dignitosissima, ma insomma sì, niente di che, cioè, basta guardare il numero di gol, lo conosciamo, sappiamo insomma che giocatore è. Dobbiamo fare una buona partita, una partita di grande concentrazione, di grande intensità, e secondo me insomma non voglio dire niente, dai, non voglio fare pronostici, già l'ho fatto il pronostico. Secondo me dobbiamo far pace noi stessi con i nostri umori. Ecco, quello che dice Tancredi, certo, è interessante, nel senso che è ovvio che la Svezia arrivi a questo playoff con più entusiasmo di noi. Noi arriviamo con mille mugugne, mille polemiche e mille inquietudini, però un conto è l'opinione pubblica, i giornali, i giornalisti, le TV, le radio, i tifosi, un conto è la squadra. La squadra secondo me non arriva male in assoluto, nei protagonisti a questa sfida. Arriva male dal punto di vista tattico, perché Madrid è stata un'imbarcata fuori, senza senso, una partita che ci ha tolto certezze, ma poi ci sono loro, e loro secondo me sono giocatori che non stanno male. Immobile sta benissimo, Candreva sta bene, De Rossi sta molto bene, Parolo sta benissimo, la difesa comunque ha vissuto momenti migliori, ma è comunque una difesa della quale io mi fido abbastanza ciecamente. Quindi, ma chiaro. Io credo che, insomma, spero che sia un po' quel famoso discorso che quando il gioco si fa duro, bravo. La pisella, spero che abbiamo, insomma, poi non lo so, poi è ovvio pure che due partite così, il rischio secondo me sta nella, è ontologico, è all'interno, cioè è chiaro che una roba di 180 minuti è rischiosa per ripetizione, perché sì, sudden death, dai, è un playoff e li devi passare, ma c'è già successo. Un'ultima pennellata d'ambiente, Tancredi Palmieri, come al di là delle signorine svedesi, com'è da quelle parti? Le signorine svedesi sono parte dei colori della bandiera, per cui dovunque vai, ok, va bene. Veramente nel mondo, io guarda, sono in questo momento a Stureplan, che è praticamente l'area più, diciamo, più trendy di Stoccolma. Ho incontrato poco fa, avevo a due tavoli che mi mangiava accanto Patrick Anderson, l'ex difensore del Barcellona, ex nazionale svedese, ci conoscevamo, abbiamo parlato un po' con la partita, e lui aveva assoluta fiducia. Lui non era certo, è difficile, è l'Italia, speriamo di farlo, no, io ho, I'm confident, io ho fiducia, sento che ce la possiamo fare, sento che le cose sono al posto giusto. Io l'unica paura che ho, mettiamola così, Pierre c'era a Rio de Janeiro, quando nell'ultima settimana, 10 giorni di mondiali, la squadra si era totalmente scollata dal CT e sembrava quasi averlo virtualmente delegittimato. Io la mia unica paura, e spero di sbagliarmi completamente, la mia unica paura è che ci sia uno stesso clima di scollamento tra guida tecnica e squadra. Però scusami, qui posso dirti una cosa, cioè noi abbiamo discusso, ed è giusto discutere, del modo nel quale si è arrivati alla formazione di stasera e al modulo di stasera, perché non è sano, non è fisiologico che ci siano riunioni fra giocatori, sì, e che sì, i giocatori in qualche modo possano determinare la scelta della formazione. Però dico pure che alla fine, al di là del modus della vicenda, che certamente non è il massimo, alla fine noi andiamo con la formazione che i giocatori di maggiore esperienza in qualche modo hanno appoggiato. Sì, quella che offre più garanzia, Pierluigi. Quindi voglio dire, alla fine Io non credo che ci sia questo rischio, cioè nessuno stasera, al di là del fatto che ti devi sentire coinvolto sempre e comunque in un appuntamento così importante, ma non credo proprio che nessuno possa, dei senatori, dei giocatori di maggiore esperienza, possa sentirsi in qualche modo scollato. Ma no, ma non scherziamo, anche semmai, perché ripeto, semmai, lo ribadisco, scusate, sono tipo disco rotto, se le cose vanno, ragioniamo. Ragioniamo sui moduli, ragioniamo sugli uomini. Non dimentichiamo che per alcuni grandi giocatori a partire da Buffon è l'ultima chiamata. Dai. Quindi io credo che vogliono andare ai mondiali proprio con tutto quello che serve. Insomma, l'unica cosa che mi sento di escludere è che ci possa essere una mancanza di motivazione, una mancanza di feeling all'interno. No, però ecco, io una truppa, secondo me, ha comunque bisogno di un generale a cui riconosce la superiorità gerarchica. Beh, ragazzi, che poi sia in panchino in porta o da un'altra parte, è un problema che secondo me si porrà dopo. Non nel senso che Ventura vada sostituito l'altro, per essere chiari, ma nel senso che secondo me poi certi puntini sulle i andranno rimessi, se tutto va bene, dal 14 novembre. Cioè, io sono d'accordissimo su questo aspetto. Penso che l'ultimo mese sia stato inquietante, cioè da Madrid in poi. Sì, da Madrid in poi si è scassato tutto, questo è evidente. Adesso qui ci stiamo giocando, insomma, ecco, il severino tutti, no? E io penso che qui quindi la qualità dei nostri giocatori sia superiore, il livello di esperienza sia superiore, il livello di coinvolgimento e di motivazione sia tanto, e quindi mi auguro e penso che andrà bene. Poi, stiamo giocando il severino, è anche un bel pacco di soldi, tipo un centinaio di milioni, come ci diceva Beninazzo, perché questo è il valore in termini economici di un mondiale. Grazie Tancredi, in bocca al lupo, ciao! Grazie a voi ragazzi, divertiti lassù in Svezia. Con l'universo piombo che si attorno, ma è difficile. Provaci. Senti, prima della borsa, Tiziano da Parma al volo, poi abbiamo Beppe Enzo dopo. Buongiorno Tiziano. Vai. Ciao ragazzi, allora il problema non è che noi non vinciamo perché loro sono più forti, è che noi siamo scarsi. È quella. Pardo può raccontare, favolare, è eccezionale. Ma però siamo sicuri? Così scarsi, sì, dai, sono più forti, più forti della Svezia dell'Italia. No, siamo noi che siamo tristi. Come? Siamo noi che siamo tristi, tristissimi, siamo tristi. E chiunque ci può giocare contro di noi: l'Albania, la Macedonia, il Montenegro, il San Marino. Siamo tristi. Addirittura. Insomma, questo Tiziano, con tutto il rispetto, mi sembra veramente eccessivo. No, la Macedonia e San Marino. Questo in qualche modo è vero, anche rappresenta anche una tendenza di altre squadre. L'Olanda non vede grandi manifestazioni del millennio. Gli amici di San Marino sono veramente l'eccezione. Ma oggi sappiamo benissimo che ci sono squadre che 15 anni fa erano periferia completa del calcio mondiale, che se la possono giocare. Quindi, da questo punto di vista, secondo me la tendenza, cioè il fatto che noi abbiamo faticato in una serie di partite, non è così drammatico. Secondo me la cosa brutta è stata che noi abbiamo avuto un processo di involuzione, cioè noi abbiamo cominciato questo girone molto meglio di come l'abbiamo finito, e sicuramente Ventura è stato un po' delegittimato ed è stato in difficoltà, nessuno nasconde questo, però che pensare siamo più scarsi da Svezia non lo mi so, sembra tanta roba, no, mi sembra tanta roba. Voglio pensare che non sia così, no, poi, ma anche perché ripeto, 7 su 11 erano all'Europeo con Conte e stavamo parlando di fenomeni, non credo siano quei due anni in più per questi giocatori a farli diventare delle pippe improvvisamente. Ci vediamo per la borsa, torniamo. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Allora, al volo con Pierluigi Pardo e Beppe Alberto, due ascoltatori, poi ci tuffiamo in un'altra grande vigilia di questo weekend che non riguarda il calcio naturalmente, ma le moto. Beppe, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica, grazie per l'attesa, dica. No, grazie a voi per la convocazione. No, allora, volevo giusto parlare così in riferimento a quello che aveva detto Palmieri riguardo a Forsberg marcato da Barzagli. Che insomma, sì, è vero, Forsberg è sicuramente un elemento pericoloso, l'ho seguito già nella passata stagione quando Lizia comunque fece miracoli, Tuttavia, insomma, io uno come Barzagli lo vorrei sempre dalla mia, perché è vero che a livello di passo è sicuramente, come posso dire, attempato ormai, perché quanti anni ha? 35-36 primavera sul gruppone, quindi insomma. Però comunque uno che sta sempre un tempo di gioco avanti agli altri, per cui dubbio. Altrimenti non sarebbe più lì e non sarebbe più comunque al centro della difesa della Juventus. Questo mi sembra abbastanza evidente, si sta parlando di questioni proprio di spigolature tecniche e tattiche. Alberto poi risponde Pardo. Alberto dica. Veloce, non vorrei fare polemica proprio in chiusura prima di lanciarci nel moto mondiale. Vale, no, su Insigne. Ho 46 anni e ho avuto la fortuna di vedere giocare da Maradona, Platini, a Baggio, a Totti, Del Piero, e sentire dire che Insigne è sì un talento, ma l'imprevedibilità quando fa sempre due passi a destra e il tiro a giro che non gli esce quasi mai, e affidarci alla sua imprevedibilità, mi sembra un po' esagerato. Poi lei alza le mani contro, se qualcuno critica Insigne, no, a me piace non moltissimo. Lo vediamo così grosso questo un campionissimo, ecco, diciamo, quando io sento che i napoletani vedono il piccolo Maradona, io non facciamo paragoni di questo tipo, non mi sembra che abbiamo molti di meglio, no Piero? E Luigi Pardo non c'è, cascò. Bene, lo salutiamo in contumacia. No, ripeto, non mi sembra ci siano tanti giocatori in questo momento della nazionale italiana che abbiano più talento di Lorenzo Insigne, semplicemente questo. Poi, se è vero che è un giocatore da piastrella, come si diceva prima, questo è estremamente limitativo per lui, io non voglio crederlo. Ma adesso, ragazzi, altra vigilia che ci interessa quanto quella della nazionale è quella rosso Ducati, bianco, rosso e verde di Dovizioso. Racing Team. Buongiorno Roberto Ungaro. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Dall'ECMA, di nuovo, ormai vivi lì, no? Sì, è tutta settimana qua ragazzi, è il nostro Natale, è la settimana di Natale per il negoziante. Sì. Ecco, quella roba lì. Senti, però abbiamo Valencia in diretta, e ce n'è da dire Carlo. Sì. Ci sono delle belle novità. Sono certamente delle belle novità, la prima delle quali sarebbe? Dilla allora, tu. La prima la tengo per ultima perché se no Leo mi asciuga, ma la dico dopo. Comunque, nelle prime prove Andrea quarto e Marquez appena dietro quinto, quindi attaccati, mentre adesso purtroppo Marquez ha fatto un tempone nelle seconde libere ed è davanti con un tempo strepitoso, e invece il Dovi è un po' più in difficoltà. Valentino, 18esimo nelle prime libere, adesso attualmente 12esimo, e la notizia era che Iannone ha fatto il miglior tempo nelle prime libere. Free practice Leo? One. No, Leo arriva, c'è il signor Graziano Rossi. Ciao Graziano, buongiorno. Ciao Graziano, buongiorno, ciao. Ciao. Allora, un primo commento, ma te lo chiedo a sensazione e a pelle. Può succedere ancora qualcosa? Perché due volte abbiamo pagato noi, anzi voi signori rossi. Stavolta ci piacerebbe raccogliere qualcosa all'ultimo istante. Tu parli di come considerare per il campionato del mondo, immagino. Sì, esatto. Ecco, io dico che... È finita o no? I conti si fanno sempre dopo la bandiera a scacchi. Come la vedi? Quindi... Come la senti? La sento che quando sembra tutto scontato, e magari quella volta che può succedere qualche sorpresa, secondo me può succedere, certo che può succedere qualcosa. Grande mondiale di Dovizioso, grande moto ora alla Ducati, ma grande mondiale di Dovizioso, no Graziano? Sì, assolutamente sì, anche perché è un po' la prima volta, ecco, per Dovizioso. Arrivare ai vertici della MotoGP, no? Sì. Quindi era un'attesa che lui ha assolto nel migliore dei modi. È stato fino adesso molto capace, molto veloce, e comunque al punto da portare il campionato fino all'ultima gara. Questo è già un risultato meraviglioso, direi. Sì, assolutamente. Roby, ti lascio l'ultima domanda a Graziano. Graziano, ciao, mi è piaciuto tantissimo quando ieri Vale in conferenza stampa ha detto non rompetemi, deciderò io quando vorrò smettere e basta chiederlo. È vero o no? Non le ha mandate a dire, nel suo stile, Graziano? Sì, sì, ma naturalmente è assolutamente giusto, perché lui sta pensando di correre ancora per 10 anni. Questo è il segreto che tu non sai. Graziano, vai a depositare il seme, mi raccomando. 10 anni, noi ti prendiamo in parola, Graziano, sì. Ti prendiamo in parola. Altri 10 anni con Valentino, io firmo. Va bene, certo, tutti. Grazie. A presto. Buon pomeriggio, ciao. No, aspetta un attimo, perché Morbidelli. Allora, questa voglio chiederti di Morbidelli, perché una delle ultime volte che ci siamo visti con te, Graziano Rossi, a qualche anno fa a Misano, e ti chiedevo: ma come c'è qualche pilota che può diventare? E tu, se sarà 5-6 anni fa, mi dicesti: occhio a Morbidelli. Bene, e adesso come la mettiamo? Mamma mia, una lungimiranza che quasi non io ho la memoria, lunga, me lo ricordo quel giorno. Allora, sì, adesso? Sì. Morbidelli in effetti era molto interessante da subito, no? Quindi ci si poteva aspettare qualcosa di molto buono, e secondo me è qualcosa di molto buono che può anche continuare nella categoria superiore, insomma. Io credo che lui possa fare molto bene anche nella MotoGP, e quindi diventare un grande, ecco. Un grande, addirittura. Ce lo auguriamo tutti. Guarda che ti prendo in parola anche stavolta, come quella, tra 5-6 anni torno a farti la stessa domanda. Che posso azzeccarti 2 volte, mi sembra pressoché impossibile. Grazie, un abbraccio. Ciao. Va bene, ciao, un abbraccio, grazie a Rossi. Te capì, Ungaro? Sì, lo aveva detto. Del resto, un ex pilota e un papà di Valentino, l'occhio lungo sui piloti ce l'ha, ma Morbidelli ci regalerà delle sorprese. Intanto, Carlo, mancano poco più di 6 minuti, Marquez è sempre lì davanti con un 31-2 che sarà difficile secondo me in queste prove superare, e il Dovi è settimo, Pedroso secondo. Cosa può voler dire questo, Roberto? Allora io, cioè, dal punto di vista emotivo, perché dal punto di vista della corsa ben poco. Esatto. Allora, Valencia, io lo sapevo che le due Honda lì giocano e sono favorite. Lorenzo terzo, Lorenzo qua è molto forte, quindi la Ducati può dire la sua anche qua. Il Dovi è partito misurando un po' le gomme. Io quello che spero è che lui non si abbatta vedendo un Marquez così scatenato là davanti. Non deve fare questo, perché vuol dire rimanere davanti. Attenzione Lorenzo, un 31.164 in questo momento, pole position di Lorenzo. E questo deve essere una molla per il Dovi, perché è fermo lì in 8ª posizione, però vedere una moto come la tua che può essere lì davanti, certo, è di stimolo. Dicevo, deve partire non almeno in seconda fila, perché poi qui è difficile superare Valencia. Questo è chiaro. Allora facciamo così, Roby, tu stai lì Roberto Ungaro, adesso abbiamo il traffico e poi chiamiamo il professor Turrini e facciamo il gioco che tutti gli italiani si aspettano. Amici e nemici, possibili alleati del Dovi o gente che magari tirerà la lavorata a Marquez, perché è questo ciò che tutti gli italiani vogliono sentire. Anzi, se vogliono pure intervenire, 800 24 00 24. Traffico. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Hasta stato un campionato che fino a 5 gare fa eravamo 5 piloti in 25 punti, no? Dopo Dovi e io questa seconda parte di campionato abbiamo fatto una bella seconda parte, specialmente Dovi ha vinto 6 gare, io ho vinto 6 gare in più, così dai, se Dovi lo vince se lo merita anche, ma proviamo di fermarlo, no? Prima. Dobbiamo rimanere concentrati, tranquilli, sereni, anche se non siamo magari i più veloci, perché se vuoi essere veloce non lo sei subito, ti rigidisci e puoi complicare il weekend. Quindi, ripeto, siamo sereni, non abbiamo niente da perdere, è molto difficile raggiungere questo risultato, però noi ci proviamo fino alla fine ed è quello che dobbiamo fare. I duellanti, Marquez e Dovizioso li abbiamo sentiti, Leo Turrini, ungaro, ti stava aspettando con impazienza. Ma io lo ringrazio perché qui sulla Pero Cormano non si va avanti, tra l'altro voglio dare una notizia che può interessare anche all'amico ungaro che avete visto la cinquina per il prossimo premio Campiello, mm-hmm, per la letteratura, i romanzi, c'è il libro di Pardo, che io pensavo fosse un trattato di ricette, invece pare che sia effettivamente un romanzo. E detto questo, vorrei sapere dall'amico ungaro, cioè è solo una formalità per Marquez questa gara di Valencia, cioè evidentemente com'è? Non sai chi è, non sai chi ha fatto il miglior tempo, non nella come sono free andate le prime libere, Leo. No, one è one. Non mi dite Leo così, diciamo voi capite, sì. Però scusate se vi permetto, ungaro, permettimi, ha fatto il miglior tempo Iannone, hai visto invece cosa ha fatto la cognata di Iannone, cioè la sorella di Belen col figlio di Francesco Moser? Avete letto un po' di siti di gossip? No, perché dico, qui stiamo arrivando a dei livelli che nemmeno Genta, che notoriamente, un cultore di una certa letteratura erotica, si sarebbe mai permesso di immaginare. E qui mi fermo perché siamo in fascia protetta, avete capito? Anzi, protetta, se posso concedermi questo calembour, cari amici. Allora, quindi miglior tempo di Iannone, sì, siamo tutti felici. Grazie. Nelle prime prove, ma qui siamo allora, pruriginoso, no? Adesso. No, agonisticamente. La cognata di Iannone, avete capito bene tutti. Vi ha capito bene. Informatemi. Ci informeremo e terremo informati. Però c'era un armadio, poi dopo non si sa, va bene. No, quello che voglio sapere è quella pista che amici può avere, quali amici può avere Dovizioso. Adesso siamo un po' maligni e maliziosi, magari proprio il signor Iannone, dicono. Roberto. Beh sì, secondo me lui, vabbè, ovviamente il compagno di squadra che ha detto, lo ha ammesso, che correrà con un occhio sulla lavagna, ma questo lo si sapeva. Secondo me Valentino può essere un grande suo amico, ma io metterei di mezzo anche, attenzione, è caduto Marquez in questo momento, è partito l'airbag, ma lui sapete che è come il Guscio Meliconi, non gli succede mai niente ed è risalito, non in sella, ma si è riavvicinato camminando con le sue gambe, quindi ennesimo crash di Marquez, ma nessun problema, è seconda posizione, è sempre Lorenzo in pole position, Pedrosa secondo, lui Marquez è terzo, e secondo me Vignales preferirebbe dare una mano a Dovizioso piuttosto che Marquez, perché tra spagnoli tu sai che un altro spagnolo può essere il primo nemico, e quindi vedo anche Vignales, mentre invece ovviamente Pedrosa e qualche altro spagnolo che ci può sostenere, ma quello che mi fa riflettere è che Marquez sta andando a vita persa, come diciamo noi, quindi non sta gestendo, sta correndo la sua maniera, che è l'unico modo che può fare. L'ultima cosa che dico è che non vorrei vedere, l'unica situazione che non vorrei vedere è che magari succede qualcosa a Marquez, non so, cioè voglio dire, può cadere, può magari fare 1-0 e il Dovi non riesca a essere davanti, cioè con una vittoria. Questa è l'unica situazione che non voglio, che io non neanche, vorrei. Io non voglio nemmeno pensarci. Leo, ma in Formula 1 abbiamo visto, insomma, adesso continuiamo ad essere maliziosi, ne abbiamo vista qualcuna all'ultima gara, amici e nemici, no? Beh, allora, sai, io mi ricordo che 20 anni fa, quando ci fu la collisione tra Schumi, Villeneuve e Rez, che costò il titolo al tedesco della Ferrari, poi scoprimmo che la Williams aveva coordinato con la McLaren via radio i momenti delle soste, in modo tale che i piloti McLaren, completamente estranei alla lotta per il titolo, non ostacolassero il figlio di Gilles. sono cose che appartengono un po' anche al tratto romanzesco delle competizioni a motori. Qui, per stare al caso specifico di Dovizioso Valencia, mi sembra molto più difficile, perché non è una cosa come era il Rest nel 97, Schumacher-Villeneuve, che chi vinceva era campione. Qui, per assurdo, Dovizioso potrebbe anche vincere, Marquez arriva settimo e tutto sicuro, suo. Sicuro, quindi sicuro. È una cosa che io faccio fatica ad immaginare. Poi, per carità, lo sappiamo bene, l'altro giorno sentivo il finalista del premio Campiello, Pardo, da te, che diceva ma c'è sempre la possibilità di una foratura. foratura. Potrebbe anche esserci un parente di Dovizioso in curva che si traveste da cecchino e spara un cerchione da onda. No, ma però insomma l'abbiamo già vista la Spanish Connection, cioè non è che ce la siamo inventata noi. Certo, però sai, qui c'è Marquez, ha troppe opportunità a suo favore, sinceramente. Senza dimenticare poi che qui mi deve rispondere il maestro Perla. Anzi Ungaro, scusami, se ho capito bene, non è che la Ducati a Valencia sia favorita di per sé, cioè non è che Dovizioso parte Leo, e vince. Hai ragione Leo, non è la moto avvantaggiata, anche se si è appena conclusa la FP2 con Lorenzo in pole position. E quindi questo Iannone, grazie alla prestazione della sua cognata lì al reality della moglie di Totti, cosa ha fatto? Appena dopo il quinto, no? Mi sembra settimo, è tornato indietro, e quindi non è la moto, non è la moto ideale la Ducati, però Lorenzo lì davanti in pole, insomma. No, ma allora Marquez può solo sbagliare in due casi: uno, perché si deconcentra, ma questo escluderei, secondo me è esatto, e due, me lo ha detto lo stesso Andrea quando l'ho intervistato l'altro giorno qui a ECMA, lui sbaglia quando non si accontenta e vuole strafare, ma non sarà questo il caso, perché secondo me, vista la situazione, si accontenta per il risultato, lui vuole solo portare a casa i punti che gli servono. Ne parliamo lunedì, ragazzi, aggiorno la seduta, siete già convocati per lunedì pomeriggio. Noi saremo felici, poi se succede qualcos'altro nell'armadio muro della cognata di Iannone, tu ci tieni informato. Sicuramente il maestro Genta ci terrà aggiornati. No, è compito suo. Ma qui sulla Piero Cormano è una coda infinita, ragazzi. Tutti sfogliano il libro, il romanzo di questo Pardo. Sembra veramente una cosa altro che è bellissimo, bellissimo. Dovrò leggerlo anch'io, ragazzi. A presto. Ciao Leo Turrini, ciao Rovi, ci sentiamo lunedì. Allora, ciao Roberto Ungaro, chiudiamo qui la settimana di Tutti Convocati. Ci sentiamo naturalmente domenica, Tutti Convocati weekend con Giovanni Capuano 17-19. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, in bocca al lupo naturalmente all'Italia del Calcio e a Dovizioso. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!